Rimano in te, io sono in me, ai giorni miei. Rinascere, poi crescere, lo rifarei. Eluderei, precluderei, poi chiuderei. Resto quel che sono e direi: tu che fai? Se il mondo ti rassassi, io quasi quasi costruirei una casa in pietra, poi insieme a te io ci vivrei. Se il mondo tira merda, la terra ci conciverei, piante e fiori offrirei a te, a tutti pure a lei. Batterei, dibatterei, non sono ok, oh no. Ammetterei, poi smetterei, non gradirei. Sei fluido, ma lucido, e rischierei. Oh, resto quel che sono e direi: tu che vuoi? Se il mondo ti rassassi, io quasi quasi costruirei una casa in pietra e poi insieme a te io ci vivrei. Se il mondo tira merda, la terra ci conciverei, piante e fiori offrirei a te, a tutti pure a lei. In pietra poi insieme a te io ci vivrei. Se il mondo tira merda, la terra ci concimerei, piante e fiori offrirei a te, a tutti pure a lei.